Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Tracce di Radio Onda Rossa e Tracce di Cinema. Oggi è giovedì 13 aprile e non 6 gennaio. E iniziamo la trasmissione. Oggi il nostro film è un po' una ripetizione rispetto a qualche giorno fa, perché siamo di nuovo, ascolteremo di nuovo un sacco di musica disco anni 70, Fede. Però ne ho parlato con un po' di persone del film di oggi e tutti hanno convenuto che è probabilmente uno dei film più belli di Spike Lee. Oh. Sei d'accordo? No. A me è piaciuto molto. Me lo sono goduto, però insomma sono abituato ad altri film suoi considerati. Io l'ho trovato un bellissimo film, l'ho rivisto anche l'altro giorno e l'ho trovato forse il film di Spike Lee più completo e più eterogeneo. Forse no? Lo dovrei rivedere. Perché proprio c'è un po' di tutto, si spazia dal thriller al dramma, alla commedia. C'è anche insomma una love story, è un po' anche un gangster movie, c'è tanta roba insomma. E poi è anche abbastanza interessante perché è il primo film di Spike Lee che non ha protagonisti afroamericani e non parla insomma non ha insomma quella intensità insomma di denuncia che di solito hanno i film di Spike Lee, ma nello stesso tempo è anche esso un po' una denuncia, perché insomma si sposta dalla Brooklyn nera, per esempio, di fare la cosa giusta, al Bronx italoamericano, di cui fa una bella critica, perché lo racconta con lo descrive in modo proprio gretto e ottuso, nel senso che comunque questa comunità è così chiusa nei confronti di tutto ciò che è fuori da essa e è diverso, tanto che poi insomma l'epilogo del film dimostra proprio questo, no? Ti ricordi la storia? Richie, il ragazzo punk viene ucciso perché viene creduto Sam il serial killer. E Summer of Sam, Panico a New York, è un film del 1999 ed è ispirato a un fatto di cronaca reale, cioè quello della storia del serial killer ribattezzato figlio di Sam, David Richard Berkowitz, che viene interpretato benissimo da Michael Badalucco, e tra il 1976 e il 1977 uccise 6 persone. Il film appunto usa questa storia, la storia del serial killer, e racconta la vita di alcuni abitanti del Bronx di New York, combattuti tra la paura del figlio di Sam e la voglia proprio di scovarlo. Sono 140 minuti che secondo me scorrono velocissimi, perché è un ottimo film e secondo me uno dei film migliori insomma realizzati nella seconda metà degli anni 90. La colonna sonora è straordinaria, secondo me, sto in fissa in questo periodo con la musica dance, ed è il fulcro proprio di tutte le vicende che Spike Lee racconta, e spazia dai primi rigurgiti di sottocultura punk a chiaramente la disco music, che in quel periodo si afferma in modo proprio potente dopo la febbre del sabato sera. Oh, Michael Zucker Band, Let's All Chant, 1977, addirittura con intermezzi li definirei rinascimentali. Sì, sì, sì, c'è un bel assolo di tromba. Comunque questo pezzo veramente kitsch è secondo me un pezzo straordinario, uno dei brani da discoteca più famosi e ballati in tutto il mondo. È stato scritto, arrangiato, prodotto e pubblicato appunto verso la fine del 77 insieme a Alvin Fields, da Michael Zucker e la Michael Zucker Band. Il disco vendette oltre 5 milioni di copie e fu in classifica per un sacco di tempo. Mi piace molto. Ti piace molto? Sì. E lui è lui Michael Zucker, che nasce come jazzista, pensa, poi si è dato alla disco music, perché insomma ha visto i quattrini e quindi ha cannato il jazz e si è cimentato in questa robaccia e ha continuato a produrre, comporre, arrangiare musica per spot pubblicitari, colonne sonore e cose per la televisione. Tra l'altro appare che abbia scoperto Whitney Houston. Chissà se è vero. Giravoce. Senti, ma vogliamo anche considerare il fatto che di quanto siamo migliorati dal punto di vista dell'ascolto, che ci portiamo le nostre cuffie personali. Sì, vabbè, una cosa ce la godiamo proprio. Io ho speso una fortuna. mi hanno prestato delle altre cuffie tipo da pochi euro, che si sentono molto meglio. Sono molto pentita. You take the weight off of me. Don't Go Breaking My Heart erano Elton John e Kiki Dee. Kiki Dee, sì, lei è una, era una vocalist, è diventata famosa con questo pezzo accanto a Elton John. Tra l'altro il video è delizioso perché c'è lei che è timidissima e Elton John è vestito in modo strepitoso. E questo pezzo è un'intesa, è inteso come una piccola, una presa in giro dello stile dell'etichetta Motown e dei vari duetti registrati in particolar modo da Marvin Gaye, e non fu mai incluso in nessun album di Elton John se non nelle varie greatest hits pubblicati poi dopo la sua uscita. Fu il primo numero uno di Elton John nel Regno Unito, dove rimase per ben 6 settimane nel 1976, e poi fu riregistrata da Elton John nel 93 in duetto con la drag queen statunitense RuPaul, con cui fecero anche un video molto divertente diretto da Randy Barbato e Fenton Bailey, nel quale Elton John e RuPaul interpretavano numerose coppie celebri, per cui Cesare e Cleopatra, Sonny and Cher, Danny e Sandy di Olivia di Grease, capito? E, molto carino il video, molto carino. E beh, se pensi che questa musica, la colonna sonora è stata curata da Richard. Terence Blanchard, scusatemi, che insomma ha curato varie colonne sonore dei film di Spike Lee, e questa musica è stata amatissima o odiatissima. Negli anni 70 si organizzavano addirittura, ho letto, dei veri e propri falò per dare fuoco nelle piazze a album, album e 45 giri. Anche questi dischi di che noi musica. Vi proponiamo oggi. Sì, sì, che, proprio perché il punk le dichiarò guerra al grido di disco sack. Mirror con Galaxy, mia cara Ottavia. Era il 1971 e questo pezzo faceva parte del decimo album della carriera degli War, gruppo musicale funk statunitense che si è formato a Long Beach in California nel 69 e ne fu membro anche l'inglese Eric Burdon dopo aver lasciato la sua band. Eric Burdon? Sì, più celebre, gli Animals. Tutto qua. No, stavo guardando, Fede, che sempre a proposito del fatto, riflettendo su questa, sulla scelta musicale di Terence Blanchard e Spike Lee, no? Sì. Quanto, insomma, quanto è spiritoso anche, no? Scegliere dei brani così, ecco, così leggeri, però comunque dei cimeli della storia del rock, e sono stati proprio scelti dal leggevo nelle varie cose sul film da Spike Lee, perché dovevano sottolineare la differenza proprio tra i due protagonisti, Vincent e Adrian Brody, non mi ricordo più come si chiama il suo personaggio, perché proprio sono due mondi diversi. Il primo fa parte di questa di questo ghetto ottuso che insomma è legato a questa musica da discoteca molto commerciale, e invece Adrian Brody rappresenta il lato rivoluzionario di quel periodo che stava per nascere. E secondo me è molto spiritoso l'accostamento, insomma. Spike Lee sì, nei suoi lavori si sente insomma anche questa sua capacità di vedere le cose drammatiche anche attraverso un modo spesso così grottesco e un po' insomma ironico, ecco. Loving. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. E in questa carrellata di musica dance anni 70 non poteva mancare tra l'altro. È il primo brano di quelli che abbiamo ascoltato finora che ho sul mio cellulare, per cui. E divenne il punto di forza del terzo album di Thelma Houston, questo brano è un classicone, lo hanno fatto certo. Un po' tutti. Poi nel 1986, quando è stato riletto da Jimmy Somerville, è diventato proprio il singolo più venduto dell'anno nel Regno Unito nel 1986, un best seller in tutta Europa. Thelma Houston, di cui non si conoscono altri successi, non era neanche suo il brano, no. E appunto, non pur così, appunto, nonostante sia la più Harold Melvin and the Blue Notes, se non ricordo male, sì, e occupò il trono di Disco Queen lasciato da Gloria Gaynor in quel periodo. Gli Who con Summertime Blues, una cover la loro. Sì, la loro cover forse più famosa di questo pezzo, che è appunto cover di un pezzo originale di Eddie Cochran, la più grande star che la musica ha prodotto dopo Elvis Presley. Ha una bellissima, pensa che Jimi Hendrix lo riteneva l'unico musicista bianco dal quale aveva imparato qualcosa, e fu lui insieme a Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard e Buddy Holly a fare uno dei veri artifici della rivoluzione musicale di quel periodo. Giovanissimo si dimostrò un valido cantante, autore, session man, chitarrista, divenendo in pochissimo tempo anche un esperto nel campo della registrazione, e fu uno dei primi a utilizzare la tecnica dell'over dubbing, cioè delle sovraincisioni vocali e strumentali, e divenne con questo pezzo nel 58 uno degli idoli giovanili più amati. Pensa che sempre di lui Sid Vicious rilanciò due pezzi, Come On Everybody e Something Else, mantenendo invariata la cadenza e l'architettura melodica, cambiando soltanto l'impatto visivo, chiaramente interpretandolo in modo un po' più punk. E non aveva compiuto ancora 22 anni quando nel 1960 è morto in un incidente stradale. Ha avuto una carriera brevissima, ma è diventato comunque una figura di culto, un artista con molto amato e che ha lasciato un posto nella storia della musica. 4 dischi ci ha lasciato, in cui è contenuto tutto il lavoro di questo pioniere del rock, e che è stato appunto amatissimo anche da musicisti dopo di lui, ecco. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. it's up to you, New York, New York, New York. E se il film di Spike Lee, Summer of Sam, parla degli italo-americani della grande mela, non poteva mancare The Voice, Frank Sinatra, New York. No, New no York. Non poteva mancare, e questo pezzo chiude proprio il film, il l'ultimo pezzo su cui insomma si scorrono le ultime immagini e poi i titoli di coda, scritta nel 1977 è il tema di New York, New York, diretto da Marty Scorsese, interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, e è stata cantata nel film dalla stessa Minnelli. La musica è stata scritta da John Kander, mentre il testo è di Fred Ebb. Dopo il successo della versione della Minnelli, nel 79 fu riregistrato questo brano, fu riregistrato da Frank Sinatra per il suo album Trilogy, e ne ha fatti insomma spesso chiuso proprio i suoi concerti con questo brano, che è diventato un po' il suo cavallo di battaglia. Nel 1985, io non lo sapevo, ma è diventata l'inno ufficiale della città di New York. Lo sapevi te? No, no. Una New York fichissima, quella raccontata da Spike Lee, e soprattutto una New York molto raccontata in modo sincero e spietato anche, ma veritiero, e fotografata grandemente dalla sua fotografa Ellen Kuras, che aveva già curato un altro film di Spike Lee che era For Little Girls. E dico questo perché insomma se vi andate a vedere il film sentite proprio il calore, l'umidità, l'afa di New York. Lei è stata bravissima a rendere proprio questa atmosfera. Sì, veramente veramente molto molto brava. Better run, run, run, run, run away. Abbiamo anche il nostro momento rock. Finalmente è arrivato. I Talking Heads. Finalmente è arrivato, perché come ti dicevo prima, la colonna sonora proprio si suddivide sì. tra questi due per questi due personaggi, cioè il personaggio di Vinnie che è così. Tra l'altro, cioè, del resto c'è un serial killer, questo è Psycho Killer. È tutto disco, e poi c'è il personaggio invece di Adrian Brody, che è il suo primo ruolo importante, sai questo? Ed è bravissimo. L'ha portato bene. È bravissimo nel film. Vabbè, è questo brano famosissimo, Talking Heads, siamo nel 1977, l'unica cosa che possiamo dire è che aprono la loro prima esibizione al CBGB è del giugno del 5 giugno 1975, aprono per i Ramones e eseguono una versione scarna di questo Psycho Killer, con arrangiamento e testo diversi da quelli definitivi, e che non so, insomma, dei Talking Heads, che devi dire. Possiamo però dire, stavo riflettendo, sì. Fede, che questa è proprio una colonna sonora una colonna sonora bianca per bianchi, bianca per bianchi. È vero? Ho fatto una bella riflessione, è una vero? Considerazione notevole la tua, sì, ti è venuta così, vero, sì. brava tutta farina del mio sacco, tutta farina del tuo sacco. Vogliamo fare questa forzatura che volevi fare su sì. rispetto allora a School Grenade? Sì, la introduco così questa cosa, perché forse sarà un errore. Nella colonna sonora di questo film c'è un brano di questo gruppo punk amatissimo dai Ramones, ma il titolo del brano all'interno della colonna sonora non corrisponde a quello che abbiamo trovato. School Grenade non si trova. No. Loro sono i Lower East Side Stitches. Forse ci scuserete se se stiamo suonando un brano che non è quello proprio della colonna sonora del film. Insomma, ci piaceva suonare un brano di questo gruppo, anche perché è sempre rivolto alla città. New York City is dead. I'm running. Lower East Side Stitches, New York City is Dead, mi ha ricordato molto The Gem in the City. Eh sì, il film, qualche notizia così, qualche approfondimento sul film. Il film fu scritto dagli attori Victor Colicchio e Michael Imperioli, che presentarono la sceneggiatura inizialmente intitolata Anarchy in the Bronx a Spike Lee, in occasione della prima di Girl Six nel 1996. L'intenzione iniziale era quella di Colicchio, era quella di dirigere lui il film. Così presentò il copione a diverse case di produzione, che però rifiutarono, e quindi poi si rivolse a Spike Lee, e lì accettò, iniziò però a rivedere il copione, aggiungendo e togliendo delle scene. L'idea di Colicchio parte da una storia vera di Colicchio e Imperioli. Infatti quest'ultimo nel 1977 racconta: un amico del mio socio era un punk, anche Victor Colicchio suonava in un gruppo punk in quegli anni, e quel suo amico si era preso un sacco di botte dalla gente del suo quartiere, che lo aveva sospettato degli omicidi commessi da Son of Sam, raccontò Imperioli. E proprio il personaggio di Ricci fu ispirato a quel ragazzo e a questa vicenda. Vogliamo accontentare Ottavia, che voleva raddoppiare con gli Wu, e glielo facciamo. Sì, perché anche perché il pezzo che abbiamo suonato prima era una cover, quindi una cover. Non era una, questa invece una è loro. Una loro cosa. Thank you. Beh, li sfumiamo, loro sono gli Who, questo è uno dei loro più grandi successi, Won't Get Fooled Again, perché siamo ai saluti, quindi dobbiamo dirci due cose e poi volevi la gran chiusura con gli ABBA Dancing Queen. Eh sì, la regina che danza, eh sì, non si poteva non chiudere in modo diverso, e ci salutiamo qua. Per questa Summer of Sam di Spike Lee, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, tracce di cinema @ondarossa.info. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, e in particolare a tutti coloro e tutte coloro che in questo momento sono private o privati della loro libertà personale. A giovedì prossimo.